Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Gaetano Quagliariello, 53 anni, napoletano, sposato con due figli. Tifoso del Napoli, appassionato di musica, un professore universitario prestato alla politica. Di lui si è detto di tutto. Quando era con Pera al Senato si diceva: se vuoi sapere cosa pensa il presidente, parla con Quagliariello. Poi si è cominciato a dire: se vuoi sapere cosa fa Berlusconi, parla con Quagliariello. Oggi si dice: se vuoi sapere cosa fa Napolitano, parla con Quagliariello. È stato radicale, berlusconiano, teocom, oggi napolitaniano. Ecco, ministro, questa mattina come si definirebbe lei? Ma come un uomo libero che fa i conti con la propria coscienza ogni giorno e che ha avuto tutto sommato un percorso coerente. C'è stata una sola rottura nella mia vita, ne parleremo, ma sì, per il resto. Senta, queste cose appartengono a momenti della vita così differenti. E quindi si può avere posizioni diverse. Lei ha detto che sull'amnistia, l'indulto, lo ha dichiarato il ministro Cancellieri, è stato frainteso, perciò è? No, io penso che nessuno possa ritenere che una legge possa non essere applicata soltanto ad un cittadino. Ecco, senta, facciamo così, sentiamo cosa ha detto la Cancellieri qua. Allora, ministro, togliamoci subito il dente. Berlusconi rientrerà o no nella sua proposta di legge su amnistia e indulto? Io penso proprio di no. Quindi per lei Berlusconi è fuori? Sì, sì, sicuramente. Ecco, non ha avuto pressioni dal Quirinale in qualche direzione? No, assolutamente. E nessuna indicazione neanche? Neanche. Insomma, convinto che stava fraintesa. Ma guardi, io ho sentito per la prima volta questo brano ora. Sì. Rimango convinto che una legge debba essere applicata a tutti i cittadini. Certo. Devo dire che la sera il ministro Cancellieri mi ha chiamato per ringraziarmi, perché dicendo che avevo ben interpretato, infatti, e il giorno dopo ha dichiarato: non si può fare una legge né a favore di qualcuno né contro qualcuno. Vabbè, la legge quindi deve avere un contenuto generale. Senta, ma quella della Cancellieri non è semplicemente l'applicazione della linea che Napolitano ha espresso nel messaggio alle Camere? Napolitano ha detto che l'amnistia e l'indulto è una parte della più generale riforma della giustizia. Che farete insieme con la Cancellieri? Io credo che quel capitolo, quello della più generale riforma della giustizia, va subito messo all'ordine del giorno del governo. Stiamo lavorando per arrivare ad una conferenza congiunta in cui riforma dello Stato e riforma della giustizia sono due aspetti della stessa medaglia. Senta, ma amnistia e indulto si fanno subito oppure no? Si dovrebbero fare entro maggio, questi sono i tempi europei. Ecco, ma chi dice che Napolitano ha troppo potere? Ragione o torto? In questo momento storico il Presidente della Repubblica, la figura del Presidente della Repubblica, è un punto di riferimento. Riempie il vuoto lasciato da altri. Ecco, da altri chi? Innanzitutto dalle forze politiche, dai partiti e da altre istituzioni che sono in crisi. Ecco, ma secondo lei, per lei, oggi il punto di riferimento è Napolitano o Berlusconi? Il mio punto di riferimento partitico è Berlusconi, perché è il presidente del mio partito. Nelle istituzioni è Napolitano, Presidente della Repubblica. Lei ha detto Berlusconi, io dico quello che penso. Gli ho detto, giurato sulla Costituzione, non mi dimetto. Lui l'ha presa bene? No, però è stato a sentirmi e credo che abbia valutato con attenzione quello che gli ho detto. Ecco, però Berlusconi ha replicato dicendo che a parte Alfano lui non ha scelto nessun ministro del governo Letta, quindi un po' orfano lo è, insomma, in qualche modo lei. Ma poi dopo l'ha smentito. D'altra parte io ho saputo di diventare ministro, così come ho saputo di diventare saggio, non da Napolitano ma da Berlusconi. Senta, ma Berlusconi, secondo lei, è vittima di una persecuzione giudiziaria oppure no? Sì. E cosa deve fare adesso? Deve dimettersi da senatore? Io penso che lui debba continuare la sua battaglia per la giustizia e per lo Stato di diritto. Credo che questo sia il ruolo principale che deve svolgere. Da qualunque posizione. Ecco, Letta ha detto: è finito il ventennio berlusconiano. È vero? Ma guardi, questi sono giudizi che spettano agli storici, non ai politici. Ed è bene farli a posteriori, anche perché il carisma non è qualcosa che è legato né a una posizione né a una sentenza. Senta, ma c'è stato un momento, anche uno solo, in cui lei si è sentito veramente traditore di Berlusconi? No. Mai. Ecco, ma quando dice che nel PDL ci sono due classi dirigenti, vuol dire che tra Verdini, da Santanchè, eccetera, e lei c'è un'incompatibilità assoluta, questo vuol dire? No, vuol dire che ci sono ottimi rapporti personali, ma è tanto tempo che non si parla di politica perché c'è incomunicabilità, e questa è venuta fuori nell'ultimo periodo. Io francamente ho una linea fondata sulla dimissione in massa dei parlamentari, dimissione dei ministri. Non è una linea politica. Non mi è parsa una linea politica. E quindi lo scontro comunque è molto forte. Lei ha detto in questa Forza Italia non ci sto, lo conferma? Beh, se è quella Forza Italia. Quindi un'altra, bisogna farne un'altra. Guardi, l'adesione a un partito è un fatto empirico e approssimativo, però l'approssimazione può arrivare fino a un certo punto, esatto. Se si va oltre. Senta, però lei ha detto dimissioni irrevocabili dal governo, la costituzione di un nuovo gruppo parlamentare. Adesso è ancora il governo, il nuovo gruppo non c'è, si farà? No, io non ho mai detto irrevocabili, io mi sono dimesso dal governo. Non erano e basta. Irrevocabili, infatti non lo mi sono dimesso dal governo. Ma ci saranno i gruppi? E basta. Non ho mai detto un gruppo parlamentare. Io penso che se si fosse votato in maniera diversa sul governo, i gruppi parlamentari sarebbero stati obbligatori. Anche qui. Questo dipende dalla linea politica, cioè non è che i gruppi parlamentari sono qualcosa di esoterico. Insomma, ci saranno se ci sono due linee politiche, ci saranno due gruppi. Se la linea politica sarà compatibile a delle divisioni interne, allora il gruppo sarà unico. Non sarà vista da fuori, comunque, quello che è capitato quel giorno, il giorno delle elezioni, della fiducia a Letta, è sembrato molto più una commedia delle parti che non una tragedia. Può essere questa l'impressione? No, io penso che ci sono stati degli elementi di dramma effettivi. Allora io le faccio sentire a distanza di un'ora che cosa è capitato. L'opzione di votare la sfiducia al governo è stata assunta all'unanimità dei presenti. Per controprova, l'opzione di votare la fiducia non ha ottenuto alcun voto. Ne deriva che per quanto riguarda il gruppo parlamentare del Senato, all'unanimità si è deciso di votare la sfiducia al governo Letta. Berlusconi invece neanche un'ora dopo annuncia. Abbiamo deciso, non senza interno travaglio, di esprimere un voto di fiducia a questo governo. Non sarà una commedia, ma insomma è un passaggio drammatico. Drammatico in un'ora, però insomma, senta, Falchi e Colombe allora sono un'invenzione giornalistica oppure è vero? No, sono la riproposizione di due linee politiche molto diverse. Come dicevamo prima, ecco. Però dopo l'incontro tra Alfano e Berlusconi dell'altro giorno, tutto sommato sembra che come sempre di nuovo è Berlusconi che comanda, così? Ma io penso che i due non siano incompatibili. Penso anche una cosa. Qual è vuole un binomio Alfano-Berlusconi? Allora, qual è il vero problema? Quello che è venuto meno è la possibilità che Berlusconi sia il concorrente di Renzi, soprattutto se si andrà a votare, come io spero, dopo la riforma delle istituzioni nel 2015. E quindi, insomma, c'è un posto libero da candidato premier, diciamo, sostanzialmente. E penso che l'unico leader del centrodestra, l'unico leader del centrodestra, che può convivere può con la leadership Alfano. Di Berlusconi, può essere Alfano se se lo conquista all'esterno. Cioè, guarda, come ha fatto Renzi, non dentro il partito ma fuori. Posso dire una cosa, come ci ha insegnato Berlusconi, le battaglie non le ha mai fatte dentro il partito. Il centrodestra è diventato maggioritario fuori. Senta, lei è un grande studioso di De Gaulle. Ha sempre detto che in Francia si è arrivati perfino a avere tre gruppi politici che si rifacevano De Gaulle. È quello che lei ha in testa rispetto a Berlusconi? No, io ho in testa un grande centrodestra maggioritario che riesca a vincere nel 2015 la partita col centrosinistra. Ma cosa le piace? Se questo dovrà passare per questo l'ha già detto, no, varie linee. Voglio dire, meglio due partiti che un litigio permanente. Ma speriamo di riuscire a evitare anche il litigio permanente. Insomma, tentiamo di fare un partito solo, di stare più correnti dentro lo stesso partito, se possiamo dirla alla democristiana, per capirci. Ecco, senta, ma cosa le piace di più di De Gaulle? Beh, di De Gaulle era la visione e la capacità di rischiare. Senta, lei ha vinto ieri, ha difeso De Gaulle a Spoleto, un festival della diplomazia. Qual è l'argomento che ha usato per vincere, perché ha vinto. Che De Gaulle non ha mai dimenticato la tradizione, le idee forti dalle quali veniva, e su queste però è riuscito a costruire il futuro. Ecco, ma si rifaranno al modello francese le riforme costituzionali che presenta lei, ma grosso modo? Guardi, spero che una cosa prendano della Francia della Quinta Repubblica, il fatto che ci sia una rottura a sinistra come quella che si è provocata tra Rodotà, Zaglebeschi e invece tanti altri costituzionalisti di sinistra, è però anche una ricomposizione. Ecco, a proposito di questo che ha detto lei, ieri Rodotà ha parlato di terrorismo costituzionale, per questo l'ho interrotta. Da parte vostra, lei cosa risponde? È che, insomma, il fatto che i nipotini di Dossetti, i nipotini di Maranini, si siano parlati e abbiano trovato delle soluzioni comuni, mi sembra più una cosa di riconciliazione nazionale che non di terrorismo. Senta, ma intanto questa legge, questa riforma elettorale, si farà o non si farà? Sì, e io spero anche prima del 3 dicembre, almeno in un ramo del Parlamento, in modo tale che la politica arrivi prima della Corte Costituzionale. Ecco, ma secondo lei è meglio un Letta oggi o un Renzi domani? Ma francamente questi sono problemi del centro-sinistra. Io vorrei che ci sia un uomo del centrodestra che riesca a vincere sia contro Letta sia contro Renzi. Sia contro Letta che contro Renzi, ma perché se... immagina che lì ci sarà una contesa, insomma, chissà, fra Renzi e Letta. Chissà perché ho questo sospetto. Sono in molti. Senta, se Renzi vincerà il congresso del PD, queste larghe intese saranno più strette? Può essere, ma proprio per questo bisognerà reggere, perché anche allora l'interesse del paese sarà quello di avere un governo. Senta, e di andare a votare solo dopo che si siano fatte le riforme. Questa è la speranza di tutti. Ma lei, a lei piacciono queste larghe intese? Ha capito cosa vuol dire larga intesa? Vuol dire che il paese non aveva la possibilità di esprimere un altro governo se non quello che si era immaginato Bersani, era fallito, che non c'era. E che questo paese in questo momento deve essere governato, perché sennò è peggio. Deve per essere tutti. Governato. E allora Letta dice che bisogna abrogare, a proposito di governo, la Bossi Fini. Alfano non vuole. Un altro scontro all'orizzonte come sull'IMU? Mica è la prima volta che però il centrodestra prevale. In questo governo c'è, di larghe intese c'è tanto centrodestra. E quindi potrebbe darsi che Letta fa marcia indietro. Potrebbe darsi che prevalga il centrodestra anche su questo. E non ci potrebbe invece essere una maggioranza variabile sulla Bossi Fini? Ci sono alcune cose sulle quali una maggioranza variabile non può essere. Senta, questa è una di è quelle. Una di quelle. Senta, ma il governo Letta ce la farà durare? Io mi auguro che ce la faccia almeno fino a quando io avrò fatto le riforme. Questa è la speranza. E lei che data si è data, non mi ricordo bene, per farle queste riforme? Io penso che noi potremmo averle entro la fine del 2014. Senta, Ministro, lei è stato consigliere culturale di Pera, l'abbiamo detto nella presentazione, e ha detto che quella era stata la svolta della sua vita. Perché? È cambiato completamente il tempo, anche non solo il tempo di vita, ma anche il tempo di riflessione. Da professore a politico avevo un tempo lungo, perché la politica è quello. Poi ho iniziato a correre e a vivere molto peggio. Senta, ma a proposito di cambiamenti, senta questo suo intervento in Senato all'epoca del caso di Eluana Englaro. E in questi giorni tutti hanno assunto delle decisioni politiche, e queste decisioni politiche hanno avuto delle responsabilità. Eluana non è morta, Eluana è stata ammazzata, e per quel che ci riguarda lo diciamo noi, non ci stiamo. Oggi direbbe la stessa cosa, eh? Ma guardi, quell'intervento nacque dal fatto che... No, mi risponda se direbbe la stessa cosa. Sul punto specifico, sì, che quella cosa non poteva essere catalogata come è stata ammazzata. Scusa. Io credo che la penso esattamente. La pensa come sempre. Ecco, col padre di Eluana ha avuto mai modo di confrontarsi? Ho avuto modo di confrontarmi una volta in televisione. Ho cercato di spiegargli che la cosa nasceva da un profondo rispetto. Credo che siamo rimasti su posizioni differenti, ma c'è stato un contatto. A me, nonostante sia stato un contatto molto duro, ha fatto piacere che ci sia stato. Ma perché la Englaro sì e gli immigranti no? Non è un po' simile? Sul piano dei morti, di chi è ammazzato? Non vedo però la relazione. Il vero problema è capire se lì era possibile avere una forma molto vicina all'eutanasia, sì, e se questa potesse essere decisa attraverso una sentenza, questo, non attraverso una legge. Questo era il problema. Sa chi è che mi spiegò per primo il problema in una telefonata alle 6 di mattina? Rapidamente. Francesco Cossiga. Beh, lui interviene sempre, interveniva sempre. Lei era un laico, si è convertito. Come è capitato, rapidamente, se si può dire in due parole? Ma guardi, insomma, non è una cosa di cui parlo, perché insomma, non amo i neofiti. Va Comunque, bene. Questo è avvenuto da un fatto di vita che ha coinciso anche con un momento di profonda... Personale. E il fatto di vita è stata la morte di mio padre. La morte di un genitore ti porta a pensare. Certamente. E questa cosa è avvenuta intorno a quella fase del 2001, l'11 settembre, che per quel che mi riguarda è stato il momento in cui ho cambiato molte delle mie categorie. Ecco, ma da intellettuale, quale lei è, in questo passaggio da laico a cattolico, diciamo, ha più perso o più guadagnato amici? Boh, guardi, un problema che non mi sono posto. No, ma d'altra è una cosa parte, che poi uno valuta. La laicità è appunto una fede religiosa, non sono per forza in contrasto. Assolutamente. Entrambe poi postulano l'imperfezione e il fatto che uno deve fare i conti con la propria con le proprie contraddizioni. Alla fine, poi, il riferimento di ognuno è la nostra coscienza. Certo. Senta, ma a proposito di coscienza, il Vaticano ha vietato il funerale a Priebke, lei è d'accordo? Funerale pubblico, naturalmente. Ma io credo che il diritto cristiano a una sepoltura dignitosa sia una cosa che va preservata per tutti. La cosa era, il problema era non fare una cosa pubblica, insomma. Questo è un problema, diciamo, di convenienza. La cosa importante è cercare di tenere il più possibile la vita e la morte, fino a che è possibile, fuori dalle polemiche politiche. Ecco, lei era vicino a Papa Ratzinger, così almeno si diceva. Ecco, cosa pensa della discontinuità, se c'è discontinuità, tra Ratzinger e Papa Francesco? Credo che bisogna attendere per capire se c'è o meno. Certo, ora l'impressione è quella che da un pensiero forte si sia piuttosto passati a uno stile forte. Uno stile forte nel senso? Nel senso che... Dei comportamenti, degli esempi. Che ci sono, che ci si affida più a comportamenti che non appunto a riflessioni. Ma con dietro il pensiero forte oppure comportamenti forti che hanno un pensiero forte o no? Questo aspettiamo un po'. Ah, cioè quindi ha qualche incertezza, diciamo. Beh, forse anche qualcosa in più di qualche incertezza. Ah, anche qualcosa in più, cioè? Insomma, qualche dubbio c'è, cioè, insomma. Vabbè, senta, comunque, una riforma importante nella sua vita, adesso c'è già stata, in attesa delle sue che arriveranno entro il 2014. Cioè? E questa riforma l'ha fatta il presidente della sua squadra, del Napoli, perché intanto il Napoli ha cominciato a vincere. E poi... Le piace più Higuain oppure rimpiange Cavani e Lavezzi? Ma sa, gli uomini passano e la maglietta resta, quindi... Ah, Higuain. Quindi si è adattato a questa tragedia di aver perso il poncio, eh? Il poncio, sì, il poncio l'ho perso 2 anni fa, però sì. Questo fatto di iniziare a fare a meno di alcuni campioni, ma con una squadra che resta in vetta alla classifica in Europa, questa è veramente una rivoluzione. Infatti, lo dicevo, ma insomma questo Napoli ce la farà far che, secondo lei? Che previsioni fa? Beh, insomma, un napoletano in questi casi non fa previsioni. Ah, non fa previsioni. Siamo alla radio, quindi nessuno vede dove sono ora le mie mani. Senta, le faccio un'ultima domanda. Mi dicono, non so se è vero, che lei canta e canta bene. Mi canticchia una canzone per interpretare questa intervista, oppure mi dà un titolo per il quale lei potrebbe interpretarsi da solo con una canzone di qualche bel cantautore italiano o no? Beh, io ricordo le parole, canto malissimo invece, però ricordo le anch'io. Parole di tutte le canzoni. E quindi è uno di quelli che canta da solo, cioè quando si fa la barba, perché lì finalmente nessuno ti sente. Assolutamente. E qua? Beh, io direi Boom di Charles Trenet. Boom, questo mica male. Grazie mille. Sono le 9:29:55. Dopo la pubblicità riprenderemo la nostra trasmissione. Grazie al ministro Quagliariello. Mix 24. Stridono le auto come bisonti infuriati, le strade sono praterie, accanto a grattacieli assolati, come possiamo tenere nascosta la nostra intesa? Ed è in certi sguardi. Siamo in diretta, Mix 24, sono le 9:33:51. E qui a fianco, naturalmente, con me, come sempre, ci sono Pietrangelo Buttafuoco, Mario Secchi, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Il nostro numero di telefono, lo ricordo, è 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. Ecco perché questa canzone, Pietrangelo? Le macchine come bisonti, le strade come praterie, è un pensiero ai nostri ascoltatori che sono in macchina, ed è anche un modo per ricordare come c'erano una volta quelle cosine di cattivo gusto ma preziose, le fotine che accompagnavano chi guidava. Papà pensa a noi, mamma pensa a noi, e tutti quanti a volersi pensare. La regola di Battiato è: tutto l'universo obbedisce all'amore, c'è un'emozione fatta di chiarore che accompagnerà questa settimana. Ah, ma fantastico, speriamo che sia davvero di buon augurio. E prima di sapere che cosa bolle oggi nella pentola in Italia e nel mondo, ho una domanda: che titolo fareste per l'intervista di Quagliariello? Mario Secchi? Se sono rose, quaglieranno. E tu, Pietrangelo? Faccio una forzatura: Quagliariello 2 punti, con Forza Italia mai più. Eccola. Cosa bolle in pentola? Ecco la sigla. Allora, caro Giovanni, allora dimmi. Ci avviciniamo alla discussione e approvazione della legge di stabilità. Molte indiscrezioni, poche certezze. C'è un'ipotesi del 3 per 1000 per l'imposta che nel 2014 sostituirà i muetarsu, cioè la servitax. Si valuta la quarta aliquota IVA al 7%, norme per difendere il suolo, meno tasse per chi assume. E come sempre la vecchia regola dei giornalisti parlamentari è: aspettiamo il testo. E aspettiamo poi, il testo, aspettiamo, cioè, il prima testo, si danno le indiscrezioni, poi si aspetta il testo. Poi ecco, si aspetta il testo. Poi c'è purtroppo ancora da segnalare che ieri sera c'è stato un soccorso nelle acque al largo di Lampedusa. Sì. Si è conclusa ieri sera un'operazione che ha salvato 160 migranti, 31 donne e 9 bambini. Non finirà con le parole, ovviamente, non si ferma il vento, certo, l'abbiamo già detto in trasmissione. Naturale. Il premier libico ieri ha detto: affronteremo la questione e vediamo. Vediamo come ha fretta. Ecco, noi abbiamo al telefono Amedeo Ricucci, l'inviato speciale del TG1, che è a Tripoli. Ciao Amedeo. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Ecco, intanto che clima c'è lì complessivamente a Tripoli? Guarda, per darti un'idea, noi ieri sera eravamo sulla terrazza dell'Hotel Corinzia e da lì sentivamo dei botti pazzeschi in tutta la città. Assieme all'interprete ho cercato di capire come si faceva a distinguere fra le raffiche di Kalashnikov che indicavano battaglie, i fuochi di artificio e chi sparava invece per festeggiare i matrimoni. Ti assicuro che non è assolutamente facile, perché in Libia, a Tripoli come a Bengasi, si spara in continuazione, molto spesso si spara per davvero e non per gioco. Ecco, nella sua intervista a Medeo, il premier libico dice che loro, i libici, non sono in grado in nessun modo di intervenire nel limitare, ridurre o frenare i flussi di migranti che partono. È così? Guarda, l'intervista l'abbiamo avuto anche noi del TG1. Sì, lo so, per questo te lo chiedo. In onda nelle prossime ore. Lui dice che il problema va affrontato alle radici. Anche la missione italiana può essere una soluzione, ma solo per quello che è il tratto finale del lungo viaggio dei migranti. Il vero problema sono le frontiere porose del sud della Libia, che i libici non sono assolutamente non controllano, insomma, sostanzialmente controllare. Diciamo, i migranti arrivano in Libia, passano dalla Libia, e dice il premier noi non siamo in grado assolutamente di controllarli. Quindi in qualche modo diciamo è anche la confessione di un caos, no? Lui ha detto molto esplicitamente che la Libia sta vivendo un momento di grande incertezza e la sicurezza è un problema per tutti, e in primo luogo per i libici, e lui stesso è stato vittima 3 giorni fa, come sì, di un piccolo rapimento. Si è capito qualcosa di questo vero falso rapimento? Lui ha accusato velatamente i fratelli musulmani e chi sta cercando di destabilizzare il paese per proporsi come l'unica valida alternativa a un governo che, secondo appunto la fratellanza musulmana, è succube quindi, degli interessi occidentali. E quindi, come ultima domanda, dovremmo aspettarci ancora grandi migrazioni, grandi sbarchi, perché lì non c'è controllo. I barconi continuano a partire tutte le notti da tutti i porti della Tripolitania. La Guardia Costiera Libica ogni tanto spara sui barconi e spesso, come ben sapete, in Italia fa ancora più danni più che risolvere problemi. I trafficanti ovviamente approfittano di questo momento di grande incertezza. Tieni presente che il business comunque è un business enorme, se si paga, come ci dicevano in tanti, 800 dollari o euro, dipende dai momenti, per ogni traversata, e su una barca si mettono 400 certo, l'affare è clamoroso. Va bene, esatto. Ti ringrazio, grazie Amedeo, grazie, buon lavoro. Ecco, che cosa pensate voi sia della tragedia di Lampedusa che della Libia che sta esplodendo, come abbiamo sentito, e sapere se in qualche modo ci deve preoccupare. 800 24 00 24, il nostro SMS 349 238 6666. Mario, aspetta, ci abbiamo al telefono Claudio da Udine, una telefonata. Claudio, sì, buongiorno. Buongiorno, sì. Buongiorno. E intanto complimenti per la trasmissione. Volevo grazie. Chiedere, in tema di riforme istituzionali, si parla molto di legge elettorale, telegraficamente tutte le alchimie che si predispongono, che si tenta di predisporre da una parte e dall'altra, non nascondono in realtà un problema di reperimento del consenso fra gli elettori? Questa è una domanda che è lecita, ma naturalmente è una domanda che giriamo con molto piacere al governo, che in questo momento naturalmente il ministro Quagliariello è andato via e quindi non abbiamo una risposta, però è una domanda importante. Mario, possiamo, grazie per la telefonata, possiamo continuare sì, con le bolle? Per la gioia dei risparmiatori italiani, senza voler fare allarmismi, però segnalo che sulla stampa anglosassone da giorni, anche oggi, ci sono degli articoli sul sistema bancario, prima europeo, però con gli occhi puntati sull'Italia, in particolare per la sovraesposizione da debito sovrano delle banche europee. E insomma, Jens Weidmann, il capo della Buba, la cara vecchia Buba, cioè la Bundesbank, dice che bisogna smetterla di incoraggiare le banche all'acquisto di titoli di Stato. L'esposizione più grossa, neanche a dirlo, è quella delle banche italiane, le quali acquistano a piè sospinto debito. Quindi? Sai, serve ai loro bilanci, ma soprattutto, diciamoci la verità, fanno da tesoreria in qualche maniera dello Stato italiano, che ogni anno emette circa 250 miliardi di debito. E insomma è come il gatto che cerca di mordersi un po' la coda, no? È particolarmente delicato il punto in questione. Ecco, c'è una telefonata, no, è caduta la linea, quindi possiamo, andiamo avanti. Mario, scusa, speriamo non cada anche Obama, nel senso che il dibattito sul bilancio americano e sul tetto di spesa e quindi sulla capacità di far debito da parte del governo federale sta arrivando a quelle che dovrebbero essere, speriamo, le battute finali. C'è tempo fino al 17 ottobre per trovare un accordo ed evitare di fatto il fallimento del governo. Ecco, Pietrangelo, qual è la bolla che hai preparato tu invece? Più che una bolla, un salamino. E il Salamino presuppone un vezzeggiativo, un qualcosa di delicato, un qualcosa di piccolo, però in realtà importantissimo. Ci ha pensato la Süddeutsche Zeitung a fare uno squinternato reportage sulla fiera di Francoforte, tutto dedicato all'Italia, dove ha additato gli stand italiani al massimo del discredito, salvando solo il caro Antonio Sellerio perché era immerso nella lettura di un libro, mentre tutti gli altri invece avevano questo aspetto dimesso, fin tanto che poi spuntava un set televisivo che era quello di Mondadori. E la morale della favola era che questa povera Italia è ridotta male perché gravata dal berlusconismo che ne ha massacrato perfino i principi dell'alfabetizzazione. E oggi invece sul Corriere della Sera Gian Arturo Ferrari, che è un bel pensare di Gian Arturo Ferrari, una bella testa, viene chiamato anche il professore non a caso, ha raccontato la sua passeggiata alla Buchmesse di Francoforte, dove ha potuto verificare un fatto rivelatore, cioè che per esempio c'era un'esplosione di vitalità negli stand della editoria turca, la stessa cosa in quelle azerbaigiane, dove avevano dei ritratti del leader simili a quelli del fu Berlusconi. Insomma è stato un insuccesso, quella presenza italiana. La presenza italiana è rivelatrice della nostra condizione. Eravamo alfabetizzati, adesso siamo rientrati nei ranghi con le orecchie da ciucci, quelli di Pinocchia, pinocchiesca memoria. Pinocchiesca memoria. Abbiamo Massimo da Pordenone, abbiamo 40 secondi. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a voi. Volevo intervenire circa le azioni di contrasto all'immigrazione clandestina. Abbiamo un governo che secondo me non sta attuando una politica di dissuasione, sta attuando una politica più che altro di soccorso e accoglienza, però il vero contrasto dovrebbe essere fatto lungo le coste e le acque territoriali degli stati di provenienza con accordi. Ma ha sentito Ricucci dalla Libia, che raccontava come il governo libico ha alzato le mani sostanzialmente, ha detto noi non siamo assolutamente in grado di fermare questi flussi, malgrado anche le navi che avevamo regalato alla Libia, ricordo, all'epoca di Gheddafi. Purtroppo questa è la situazione. Probabilmente il governo libico sta anche pensando di incassare qualche soldo in più, perché questo vuol dire quello che ha affermato il governo libico di transizione in questo momento, vuol dire dateci ancora più soldi perché sennò non riusciamo a fermare. È anche possibile. La ringrazio. Dopo Strade in diretta tocca a voi, se volete, aggiungere qualche cosa in pentola. Ripeto i nostri numeri 800 24 00 24, se volete mandare un sms 349 238 6666. Mix 24. Ritorniamo in diretta, sono 9.47, 28 secondi, parliamo di televisione di qualità con il professor Giorgio Simonelli, storico della televisione, insegnante alla Cattolica di Milano. Ecco, professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, dov'era il canone ieri sera? Ma non poteva che essere su Rai 1, perché c'era una fiction molto attesa, con delle premesse molto delicate, perché si sa insomma che la polemica attorno alla fiction italiana, specie quella di prima serata di Rai 1, è molto molto vasta, molto profonda. Si dice insomma che la fiction italiana fatichino a rappresentare veramente il paese, che siano un po' edificanti, spesso con una visione della realtà edulcorata, e invece si attendeva molto questa fiction che edulcorata e edificante non poteva essere per il suo tema. Insomma, c'era l'idea che si dovesse inaugurare ieri sera un nuovo corso della fiction italiana con un prodotto molto delicato. E questo tema, tu lo consideri un esperimento riuscito? Beh sì, sostanzialmente sì, forse non perfetto, però insomma, vista la delicatezza della situazione, insomma, si trattava di evitare le cadute nel voyeurismo, nel sensazionalismo, nello scandalismo. Insomma, quindi brava Tini Andreatta, la nuova capa della fiction della Rai. Brava soprattutto a recuperare un autore di fiction, Marco Turca è un autore, esatto. Sappiamo che insomma, già Basaglia, già Rino Gaetano, insomma, la capacità di un regista di avere una sua linea personale, di riscoprire alcuni personaggi un po' dimenticati della storia nazionale e alcune situazioni come dire, un po' confuse, perché sia su Basaglia che su Merlin, insomma, c'è stata un po' di confusione nel dibattito, mentre mi sembra che qui venga fuori una linea molto coerente dal punto di vista storico. Ecco, noi abbiamo, grazie professore, noi abbiamo al telefono, intanto ricordo 800 24 00 24 per chi volesse intervenire anche su questo tema, sms 349 238 6666, abbiamo il telefono Vittoria Puccini, che ringrazio, che nella fiction di ieri interpreta Maddalena, una ragazza vittima del sistema delle case chiuse dell'Italia degli anni 50. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Ecco, che cosa è stata questa esperienza per lei? Come la valuta? È stata un'esperienza importante. Penso, posso dire sinceramente di essere orgogliosa di aver partecipato a questo film e di aver potuto interpretare un personaggio così interessante anche proprio per un'attrice, e credo che sia una storia che andava raccontata, e importante, che le persone devono conoscere, proprio perché anche alla luce di questo dibattito che si era aperto proprio ultimamente sulla possibilità o meno di riaprire le case di tolleranza, penso che, e che impressione la situazione si... in cui vivevano, penso che la situazione in cui vivevano le ragazze all'epoca in cui la legge Merlin è stata approvata, molti non la conoscono, non la conoscevano, certo. E quindi fiction di questo tipo che raccontano una realtà così appunto importante, che deve essere riconosciuta, penso che siano necessarie, e ecco. Per questo sono orgoglioso di aver partecipato. Ecco, ricordo che stiamo parlando al telefono con Vittoria Puccini, che nella fiction Altri Tempi ha interpretato Maddalena. Ma la fiction è in qualche modo uno strumento vero di racconto del paese in questa versione? Io credo di sì, che può esserlo, e questo film è un esempio. Io credo che la fiction abbia un valore importantissimo proprio per il numero di persone che raggiunge, entra in tantissime case e può raggiungere ascolti altissimi, e proprio per questo ha una grande responsabilità. È chiaro che non deve essere per forza fiction impegnata, può essere anche intrattenimento, certo, naturalmente, che ci sia di tutto, però è importante che la RAI come servizio pubblico insomma ne faccia e ne faccia anche interpretando appunto questo bisogno. Ecco. Produca film di questo tipo che insomma raccontano una storia, una parte importante della storia del nostro paese. Ecco, lei ha detto film, ha detto la parola film, lei è nata con la fiction, però ha fatto anche tanto cinema. Qual è lo stato di salute, secondo lei, del cinema oggi? Insomma, non è un ottimo stato di salute, ma credo che ci siano dei buoni segnali di recupero. Io adesso proprio in questo momento sono impegnata nelle riprese di una commedia, che è un altro genere importante del nostro cinema, mi sto divertendo molto, è una commedia di Paolo Genovese, e penso che insomma sono molto felice del mio lavoro e penso che sto tirando fuori un bel film, e quindi insomma l'importante è avere la voglia di fare bene. Ci sono tanti registi, tanti talenti che ce la stanno mettendo tutta. Grazie. Io credo che più che abbattersi bisogna sperare, bisogna invece sperare. Grazie, esatto. Grazie molto a Vittoria Puccini. Abbiamo una telefonata da Monza, Ronald da Monza. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prima di tutto sono contentissimo che lei sia andata su una grande radio, complimenti, perché è la mia. Ringrazio. Tornando, io mi è successo ieri di vedere su Rai 5 Paolini, sì, sulla tragedia del Wayona. Stupendo, un pezzo di teatro magistrale. Strepitoso. Sì. Quello lì meritava la prima serata. La Rai veramente, da quel punto di vista lì, lo dico non in senso, diciamo, non polemico. No, ma dica pure quello che pensa. Non c'è la Rai problema. Dorme. Perché sì, mettere Paolini su Rai 5, che purtroppo non è molto seguita, ma è un'ottima televisione. Però i canali tematici devono crescere, la ringrazio. Ma li devono pubblicizzare. Questo è vero, grazie mille, buona giornata. Mario, tu? Che cosa ho fatto io ieri? Dove era il canone per te? Vabbè, ma io sono dissacrante in questo. Sì. Io sono un amante delle opere di Ian Fleming. James Bond, quindi ero su Sky, dove c'è tutta la serie di James Bond. Ieri Casino Royale, per l'esattezza. Valeva la pena. Beh, le cifre, voglio dire. Daniel Craig è un grande interprete. Quello è un bel cinema, eh? Gran cinema. Sì. Ecco, e Pietrangelo, tu? Il servizio pubblico per eccellenza è nel pubblico di Che Tempo Che Fa. Manco le mitiche scimmiette possono essere così efficaci nell'opera di propaganda e di plauso, perché quel duello fatto con Brunetta, lo potete riascoltare quando sull'home page del Corriere c'è visibile questa scenetta, era significativo proprio per questo. Quando mai la demagogia? Quello gli dice: prendi 5 milioni, è tutto giusto, è da giusto. Fosse stato un altro, avrebbe detto il Candido dei vecchi tempi: popolo bue, li hai votati e adesso pagali. Ecco, questo spazio è stato curato come sempre da Sara Tardelli. Dopo il giornale radio torna Mix 24 con la storia, curata da Marina Milone. Oggi, dopo le numerose polemiche seguite alla morte di Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, raccontiamo la storia che porta da Via Rasella appunto alle Fosse Ardeatine. A seguire un'intervista con Fiamma Niederstein. Grazie.